Domani avrò l'ennesima chiamata su Zoom. Oramai queste piattaforme per le videochiamate sono diventate purtroppo la normalità per le nostre comunicazioni durante la pandemia. Zoom è una delle piattaforme che ha riscosso più successo in questi ultimi mesi e soprattutto è una di quelle che, finendo sotto i riflettori, ha ricevuto maggiori attacchi sia per quanto riguarda vulnerabilità che esponevano dati degli utenti, sia per quanto riguarda collegamenti con aziende cinesi. C'è tutto quanto una miriade di problematiche collegate a Zoom, ma va comunque riconosciuto che si sono messi d'impegno e hanno cercato di risolvere le varie questioni. Peccato che martedì scorso il CEO di Zoom abbia dichiarato: pensiamo che la tecnologia end-to-end, quindi la crittografia end-to-end, la forma di crittografia più sicura, possa essere offerta solamente agli utenti che pagano per Zoom. Chiunque utilizzi Zoom in modalità gratuita non può sfruttare i benefici della crittografia. Questo perché, e cito testualmente, noi vogliamo lavorare insieme all'FBI, alle forze dell'ordine, nel caso in cui alcune persone sfruttassero Zoom a fini malevoli. È esploso il finimondo. Quando parliamo di crittografia end-to-end, intendiamo quella tecnologia che sfrutta appunto la crittografia per mettere in sicurezza la comunicazione tra due o più persone. È quella che sfruttiamo quotidianamente per chi utilizza WhatsApp, è un tipo di tecnologia che viene sfruttata nelle chat segrete di Telegram e è de facto lo standard che è stato introdotto con l'applicazione di messaggistica di Signal, che è una delle più sicure. Sfruttando la tecnologia end-to-end, solamente le due parti che stanno comunicando possono accedere effettivamente al contenuto della comunicazione. Quindi gli operatori telefonici, i gestori stessi dell'applicazione e del servizio non possono leggere il contenuto della comunicazione. Ovviamente questo crea dei problemi alle forze dell'ordine, che devono fare delle indagini e quindi vorrebbero avere accesso al cosiddetto plain text, ossia il testo in chiaro, sia che esso si tratti di messaggi scritti, sia che si tratti di video. Per quanto riguarda la messaggistica, quindi i messaggi scritti, l'invio di mail o simili, la tecnologia end-to-end ha raggiunto già degli ottimi risultati, destando quindi preoccupazioni per le forze dell'ordine, perché se tutte le piattaforme offrissero un sistema di messaggistica end-to-end, le loro possibilità di fare indagini sui messaggi in transito sarebbero impossibili, pari a zero, quindi non potrebbero accedere a quei contenuti. Per quanto riguarda le piattaforme di videoconferenza, la questione è un po' più complicata, perché appunto non si tratta solamente di messaggi di testo, ma lì c'è proprio un vero e proprio invio di video e quindi di informazioni diverse. Zoom sta facendo degli ottimi lavori per quanto riguarda cercare di introdurre una forma di crittografia end-to-end con i propri servizi, e effettivamente ha assunto anche un pool di esperti del settore per cercare di mettere insieme i pezzi necessari per offrire questo tipo di servizio. Tra i vari esperti che sono stati convocati c'è Alex Damos, che è ex Chief Security Officer di Facebook e quindi si occupava della gestione delle situazioni compromettenti in cui si trova Facebook, nel senso che se c'erano degli attacchi, delle vulnerabilità, delle campagne di misinformazione sulla piattaforma di Facebook, lui era il responsabile che gestiva e coordinava la situazione. Stamos ha abbandonato Facebook e ora fa parte dello Stanford Internet Observatory e si occupa comunque di continuare a fare ricerca su questi temi. Stamos appunto collabora con Zoom per lo sviluppo di questa piattaforma end-to-end, e dopo le dichiarazioni del CEO di voler lasciare solamente la possibilità di sfruttare questa misura che protegge ulteriormente la privacy dei cittadini per gli utenti paganti, ha fatto un thread su Twitter in cui sottolinea come dobbiamo tenere in considerazione non solamente la privacy, ma anche altri problemi che giustificano questa scelta. Nel senso, ci sono problematiche relative al hate speech, relative all'incitamento al terrorismo, a problemi legati al suicidio e al self-harm, la condivisione non consensuale di immagini intime e anche lo sfruttamento minorile e molestie. E quindi per tutta quanta questa serie di altre problematiche, Stamos sottolinea come sia necessario che vi sia la possibilità di collaborare con le forze dell'ordine. La maggior parte di questi crimini, secondo appunto il ragionamento dietro la scelta di offrire l'end-to-end solamente a chi paga, è che appunto la maggior parte dei criminali sfrutterebbe semplicemente il servizio gratuito, e quindi in questo modo, non offrendo la possibilità di utilizzare la crittografia, si rende più facile il compito delle forze dell'ordine. E quindi in questo modo, Stamos ribadisce, dobbiamo soppesare da un lato la privacy, dall'altro anche l'opportunità di rendere queste tecnologie il più accessibili possibili per quanto riguarda la collaborazione con le forze dell'ordine. Quello che vorrebbero fare infatti quelli di Zoom è rendere possibile ai propri dipendenti accedere alle conversazioni che sono in corso, in modo da valutare se effettivamente si sta commettendo qualcosa di illegale, e a quel punto notificarlo direttamente alle forze dell'ordine. Chiaramente questo apre la possibilità alla concezione che la privacy possa diventare un diritto a pagamento, e quindi non più un diritto, ma semplicemente un qualcosa che chi può permettersela, chi ha i soldi per acquistarla, può ottenerla. Quindi diventa una feature aggiuntiva e non come vorrebbero alcuni principi, soprattutto europei, come quello della privacy by design, della security by design, essere essi stessi insiti nel codice sin dall'inizio. Ovviamente questa notizia ha fatto scalpore, e dall'altro lato, contrapposto a questa visione di Stamos, abbiamo Matthew Green, docente di crittografia alla Johns Hopkins e quindi uno dei massimi esperti sul tema, che anche lui ha risposto con un thread molto interessante in cui sostanzialmente ripercorre la situazione attuale in cui le forze dell'ordine statunitensi stanno portando avanti una lotta sfrenata contro la crittografia end-to-end. Stanno cercando in ogni modo, sfruttando ogni tipo di cavillo che non sia necessariamente legislativo, ma anche appunto spingendo e facendo pressioni sulle aziende in modo che accolgano delle soluzioni, ad esempio come quella di Zoom, e quindi offrire l'end-to-end come una sorta di opt-in. Chiaramente nei giorni in cui stiamo assistendo a proteste in tutti gli Stati Uniti, parlare di offrire una piattaforma che può essere sfruttata anche per organizzare le proteste e lasciarla scoperta per quanto riguarda la protezione delle comunicazioni è chiaramente un problema gigantesco. Come sottolinea Matthew Green, il rischio di negoziare con le forze dell'ordine in questo modo, e quindi di offrire due diversi livelli di protezione, è destinato a fallire, è destinato a, come dice lui, a gettare gli utenti dentro la bocca del dragone, e quindi è chiaramente ben peggio. In questo caso un altro punto interessante è quello per cui il governo federale americano è riuscito a, in un certo qual modo, intimidire un'azienda e convincerla a non introdurre una crittografia end-to-end completa. In realtà delle soluzioni già esistono, perché come ha introdotto Facebook per quanto riguarda la sua app di messaggistica Messenger, in quel caso nelle chat che sono protette dalla crittografia end-to-end è possibile comunque segnalare dei contenuti che violano le norme imposte da Facebook, o nel caso in cui si stesse effettivamente commettendo qualche reato, e quindi c'è una possibilità di inoltrare i contenuti che si ricevono. Quindi cercare di contrastare le richieste del governo, le pressioni del governo americano sul tema della crittografia è chiaramente uno dei punti cardine per i prossimi mesi e anni, perché ovviamente la guerra contro la crittografia va avanti da anni. Prima c'era il problema della crittografia a terrestre, quindi nel senso nei nostri dispositivi e quindi di storage, che ora sono tutti quanti bene o male cifrati, quindi hanno già una cifratura per i dati che contengono i nostri smartphone. Proprio quanto riguarda le comunicazioni, quindi il transito delle informazioni, c'è nuovamente questa battaglia aperta. E chiaramente se abbiamo aziende che sono disposte a rinunciare ad offrire uno strumento, un servizio come la crittografia end-to-end generale al pubblico più ampio possibile, chiaramente questo favorisce l'operazione del governo americano, perché a questo punto chiaramente chi offre crittografia end-to-end per tutti si trova in una posizione ancora più scomoda, perché dall'altro lato ci sono aziende disposte a mostrare che esistono delle soluzioni, non sono nemmeno delle soluzioni, perché possiamo definire una sorta di accrocchi perché non esiste che vengano creati due livelli di sicurezza per chi paga e per chi non paga.